TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Muggia cerca di metabolizzare il lutto nella cittadina rivierasca. Si stanno appendendo le luminarie che quest'anno però avranno una luce mesta, ricordando Giovanni. Una banda di ladri di appartamenti dopo le razzie nel Padovano si sono trasferiti nel Pordenonese, dove sono stati individuati in un appartamento con una refurtiva da 200.000 euro. 11.500 gli infortuni sul lavoro in Friuli Venezia Giulia dall'inizio dell'anno, a fornire il dato la CGIL che ha elaborato i dati INAI. Gorizia vara la rivoluzione dei parcheggi. Dopo 18 anni il comune rivede il sistema tariffario, che sarà diverso per residenti e non. Il costo orario da febbraio per i cittadini sarà di 1,10 euro. L'Unione Europea, attraverso i fondi Interreg, ha finanziato un progetto di studio sulla resilienza climatica della viticoltura sul Coglio e Borda. Oggi a Corno di Rosazzo il punto sulla ricerca alle quali hanno partecipato enti italiani e sloveni. Buongiorno da Maria Spezia e Nada Ciocchi in apertura Muggia. La cittadina cerca di metabolizzare la tragedia e si sta preparando all'avvento, allestendo il presepe nel Duomo che ieri era gremito, per dare l'ultimo saluto al piccolo Giovanni. Nelle calli le luminarie sembrano annunciare un Natale che poca gioia natalizia potrà portare. A Muggia il giorno dopo non è tornato il sole e il volto della gente resta segnato dal dolore. Da giorni sotto i riflettori i residenti hanno poca voglia di parlare a microfono. Non abbiamo parole, restano solo lacrime. Chi sceglie di commentare lo fa con garbo e rispetto. Sui negozi ancora affissi cartelli del lutto e se non fosse per una vivace scolaresca di Trento, in gita tra le calli di Muggia, sembrerebbe di rivivere l'atmosfera di 24 ore prima, quando la città tutta si è unita attorno al papà Paolo nel giorno dei funerali del suo bambino Giovanni, ucciso a 9 anni dalla mamma. In cimitero i fiori bianchi portati dai compagni di classe infilati sulla terra e poi pupazzi e biglietti di Natale. Un Natale che sembra più lontano qui a Muggia, nonostante gli operai siano già al lavoro per allestire le luminarie in quella piazza che non ha potuto festeggiare neppure San Martino. Le casette di legno dovevano aprire proprio il giorno in cui si è saputo della morte del piccolo Giovanni, avvenuta nella palazzina che si affaccia sul Duomo. Duomo che solo ora è pronto ad ospitare lo storico presepe che verrà svelato, come da tradizione, l'8 dicembre. Per rispetto nei confronti di questo bambino, racconta un signore che dal 98 lavora al presepe, abbiamo deciso di inviare l'allestimento. Muggia, Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia. In seguito a numerosi furti compiuti nel Padovano a fronte di una refurtiva di almeno 200.000 euro, la polizia ha individuato il covo in cui si era nascosto il gruppo di colpevoli da un paio di giorni in provincia di Pordenone, dove poi continuavano gli uomini a compiere furti. La polizia li ha scovati analizzando elementi raccolti dopo alcuni colpi, un'auto di grossa cilindrata usata per appunto le loro operazioni, il controllo dei percorsi stradali che ha portato la polizia al covo dei ladri. Su mandato della procura è stato predisposto un blitz con una quindicina di agenti della squadra mobili di Padova e di Pordenone, che hanno accerchiato l'abitazione facendo poi irruzione, sorprendendo i 4 uomini di nazionalità albanese a rientro da razzie e da tentativi di furto in abitazioni della zona. Nell'appartamento sono emersi gioielli, orologi, denaro contante per un valore di circa 200.000 euro che saranno restituiti ai legittimi proprietari. Sottoposti gli uomini a fermo di polizia giudiziaria, a seguito della loro identificazione è stato accertato che 2 dei 4 albanesi erano latitanti. All'esito degli accertamenti, 4 fermati sono stati sottoposti appunto a fermo per i furti commessi anche la sera precedente al blitz della polizia. 2 di loro sono stati arrestati in esecuzione dei provvedimenti pendenti a loro carico. Si trovano ora presso la casa circondariale di Pordenone. Coinvolto anche il carcere di Tolmezzo nelle perquisizioni per verificare la presenza di telefoni cellulari tra i detenuti, l'operazione è stata avviata dal penitenziario di Genova Marassi, in cui sono emersi 150 apparecchi telefonici e 115 schede usati da detenuti delle sezioni di alta sicurezza per reati di mafia che comunicavano con mafiosi liberi o rinchiusi in altre carceri. I cellulari, muniti di schede SIM intestate a persone inesistenti o ignari cittadini stranieri venivano introdotti nelle carceri in pacchi spediti o consegnati in occasione delle visite dei familiari ora indagati. Sono 11.500 gli infortuni sul lavoro registrati in regione nei primi 9 mesi del 2025. I dati sono stati elaborati dalla CGIL regionale su dati INAIL e registrano un calo dell'1% rispetto allo stesso periodo del 2024. La flessione riguarda soprattutto gli incidenti avvenuti durante l'attività lavorativa, che scendono a 9.962, mentre aumentano del 5,5% gli infortuni in itinere, quelli nel tragitto casa-lavoro. Industria e servizi segnano un calo nell'1,5% e l'agricoltura arretra di quasi il 5%. Fa eccezione il settore pubblico, che registra invece un incremento del 3,5%. A livello territoriale il dato più rilevante è quello di Gorizia, dove gli infortuni scendono dell'8,6%. Stabili Pordenone, lieve calo a Udine, mentre Trieste mostra un aumento dell'1,8%. Sul fronte degli infortuni mortali il bilancio regionale si attesta a 14 casi, uno in meno rispetto all'anno scorso. 8 le vittime sul posto di lavoro, 6 in itinere, la maggior parte dei casi 7 a Udine. I dati sono stati presentati a margine della conferenza stampa dell'evento Morire di lavoro, voluta da CGIL e Filea, di venerdì alle 9.30 al Mela, con la presenza delle scuole per ribadire che la pericolosità del lavoro non deve essere sottovalutata. L'evento vedrà una conferenza sul tema infortuni, la proiezione del docufilm Articolo 1 di Luca Bianchini, prodotto da Alveare Cinema e Rai Documentari, e la presentazione del libro Operaicidio del magistrato Bruno Giordano e del giornalista Marco Patucchi. Trieste, Andrei Marusic, TGR, Friuli Venezia Giulia. L'educazione finanziaria rappresenta un passo fondamentale per rafforzare l'autonomia economica delle donne. Per questo CGIL, CISL e UIL del Friuli Venezia Giulia, assieme a Banca Italia, organizzano per venerdì il corso ABC Educazione finanziaria, dedicato a 130 rappresentanti sindacali, di cui oltre 90 della nostra regione e 35 del Veneto. L'obiettivo è potenziare la formazione in ambito finanziario delle rappresentanze sindacali, in particolare tra le donne, con l'obiettivo di favorire la trasmissione delle competenze anche sui luoghi di lavoro e nelle varie articolazioni del sindacato territoriale di categoria. A coordinare il progetto in regione Maddalena Ferri per Banca Italia, Daniela Duzza, Alessia Cisori e Elisabetta Pilat per CGIL, CISL e UIL. La violenza economica, spiegano le tre sindacaliste, è una delle forme più subdole, sottostimate e diffuse della violenza di genere. Quando si utilizzano denaro e risorse finanziarie come strumento di controllo all'interno di una coppia o di una famiglia, si vuole così minare l'autonomia della donna per toglierle indipendenza e la possibilità di uscire da relazioni compromesse o tossiche. Il Friuli Venezia Giulia nel 2023 era la terza nella classifica delle regioni con minor spesa pubblica destinata a sanità privata, a fronte di uno stanziamento del 10% secondo la Fondazione Gimbe, che ha analizzato dati della Ragioneria di Stato. Dall'analisi emerge che la regione con la quota maggiore di spesa pubblica per il privato convenzionato era il Lazio, con quasi il 30%, superiore dunque alla media nazionale del 20%. Al secondo posto il Molise, terza posizione la Lombardia con il 27%, la più virtuosa la Valle d'Aosta con il 7,7%. A Gorizia dal 1 febbraio 2026 scatta la rimodulazione del sistema di tariffazione degli orari per i parcheggi nelle zone blu, una rivoluzione se si considera che le tariffe sono rimaste invariate per 18 anni. Innanzitutto viene introdotta la differenziazione tra residenti e non. I residenti pagheranno 10 centesimi in più all'ora, con il ticket orario che passerà quindi da 1 euro a 1 euro e 10. Per i non residenti il parcheggiare a Gorizia costerà 1 euro e 40 all'ora e 70 centesimi per la mezz'ora. La tariffa minima sarà di 30 centesimi all'ora, pari a 12 minuti. L'abbonamento giornaliero sarà di 6 euro e quello mensile di 35. L'abbonamento mensile però per i residenti nelle vie ZTL sarà di 20 euro. Introdotto anche un cambio della fascia oraria di applicazione del ticket, stabilendo, tra le altre cose, che venerdì e sabato si anticipa alle 18:30 il termine dei pagamenti per incentivare la frequentazione di locali e negozi cittadini. L'amministrazione comunale ha deciso inoltre di affidare la gestione delle soste pagamento a GSM, che metterà peraltro a disposizione un'app senza commissioni per il pagamento del ticket. Giornata d'esordio per il progetto Interreg Italia-Slovenia e Regavit per la gestione sostenibile delle strategie idriche in viticoltura e la gestione del suolo. In programma incontri, dibattiti e presentazione dei risultati dell'iniziativa, che ha coinvolto ricercatori, consorzi vitivinicoli e istituzioni di entrambi i paesi. Da due giorni oggi in corso a Corno di Rosazzo, Villa Anachi di Cabassi, e include la firma dell'accordo transfrontaliero tra i partner, tra cui le Università di Udine e di Venezia, l'Agenzia Regionale per lo Sviluppo Rurale ERSA e gli Istituti Agricolo e Geodetico sloveni. Tra i relatori il docente di morfologia della vite Paolo Sivilotti, a cui abbiamo chiesto una sintesi del suo intervento. Ad oggi il cambiamento climatico si sa che sta estremizzando la distribuzione delle piogge, soprattutto in estrate, e sempre di più si assiste a periodi di stress idrico, e quindi per questo motivo abbiamo lavorato sull'irrigazione. Qual è il fabbisogno di acqua in una coltivazione vinicola? Il fabbisogno idrico minimo per coltivare la vite è 350 mm all'anno, che se lo confrontiamo con le piovosità medie estive del Friuli Venezia Giulia e del vicino Slovenia, sembra quasi ridicolo, perché normalmente durante la primavera estate piovono dagli 800 ai 1200 mm. Però il problema è che ci sono periodi di stress idrico anche lunghi, che possono portare la pianta in stress e quindi necessita di essere rifornita di acqua, almeno nelle zone dove l'irrigazione è presente. Le conclusioni principali del progetto sono che l'irrigazione del vigneto è un qualcosa di abbastanza complicato, dipende dalla tipologia di vino e dipende anche dalla stagione, ovvero sia stagioni più secche permettono verosimilmente di irrigare di meno il vigneto, invece stagioni in cui piove di più i periodi di stress idrico sono più pesanti per la vite e quindi bisogna intervenire più massicciamente con l'irrigazione. Vediamo il meteo, il cielo è coperto, le temperature registrate poco fa, Trieste 11 gradi, con Bora con raffiche fino a 45 km orari, Gorizia 10 gradi, Udine 9, Pordenone 6 gradi e mezzo, Tolmezzo 4 gradi, Forni di Sopra e Piancavallo 3 gradi, Tarvisio 5 decimi di grado, Sappada 0, Monte Zoncolan meno 2 gradi e mezzo, Monte Lussari meno 3 gradi e mezzo, Grado 10 gradi e mezzo, Lignano 8 gradi e mezzo. Le previsioni: domani cielo sereno, poco nuvoloso, con bora da moderata sostenuta sulla costa e sulle zone orientali, probabilmente anche forte a Trieste, gelate notturne in montagna e anche in pianura probabili, specie nelle zone dove non sarà presente il vento. L'associazione Pro Pordenone ha lanciato una raccolta fondi che sarà aperta fino a metà gennaio e dedicata alla collezione di foto e cartoline d'epoca donate da Gino Argentin. La raccolta sarà veicolata dal portale Ginger, che con il contributo di Banca 360 ha selezionato e sostenuto il progetto. Argentin è nato a Cordenons nel 1937, si ricorda gli aerei alleati mentre sorvolavano Cordenons nel 1945 e lanciavano volantini alla popolazione. Li ha raccolti e ne ha fatto una collezione. Ricercatore insaziabile di testimonianze, Argentina ha creato un archivio storico, donato poi all'associazione, per essere messo a disposizione di ricerche, pubblicazioni e anche del piacere di godere delle immagini per riscoprire gli scorci del passato. L'associazione si è data l'impegno di valorizzare questo patrimonio con attività di riordino, catalogazione, digitalizzazione e l'allestimento di mostre, e per questo sta raccogliendo i fondi. A Pordenone ginecologi e ostetriche sono riuniti nel convegno interregionale con l'obiettivo di favorire il confronto tra professionisti ospedalieri e territoriali del Nord-Est. A Pordenone è in corso il convegno interregionale di ostetricia e ginecologia che vede riuniti 150 specialisti e specialiste provenienti da Friuli Venezia Giulia, Veneto e Trentino Alto Adige. L'evento è organizzato dall'associazione AUGOI con il coordinamento di Francesco Pirrone, primario della ginecologia dell'ospedale Santa Maria degli Angeli. Oggi affronteremo tematiche riguardanti la patologia benigna e maligna ginecologica, l'assistenza pre e post operatoria e tematiche riguardanti le patologie ostetriche. Quello di Pordenone, a seguito dell'accorpamento dei punti nascita in Friuli occidentale, è diventato di fatto il polo ostetrico più grande della regione, 160 parti mensili, quasi 2.000 l'anno attualmente. Mancano 11 ostetriche, 7 sono in arrivo con nuove assunzioni. Stiamo lavorando certamente sotto pressione, ma non abbiamo mai avuto sostanziali criticità fino a questo momento. Naturalmente aspettiamo di trasferirci poi nel nuovo ospedale, nel nuovo reparto. A quando il trasferimento? Insomma, secondo le ultime riunioni potrebbe essere tra marzo e aprile dell'anno prossimo. Manca l'ufficialità, ma Pirrone non seguirà il reparto nel passaggio al nuovo ospedale. Il primario è diretto a Treviso. Mercoledì prossimo parteciperà al concorso, il cui esito pare scontato. L'orientamento dell'azienda sanitaria è di sostituirlo con la primaria di San Vito Roberta Pinzano. Entro l'anno il cambio potrebbe essere già operativo. Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. Nel parco dell'ospedale maggiore di Trieste vive una storica colonia di gatti che in passato è stata curata anche dall'astrofisica Margherita Hack. Nel corso degli anni la colonia si è ridotta e ai gatti è stato vietato l'ingresso nell'ospedale. Sentiamo. 81 anni, commerciante, un passato da sportiva e primo arbitro donna di pallacanestro a Trieste, Marina Della Torre è la gattara dell'ospedale maggiore. Nel giardino interno al quadrilatero voluto dall'imperatore Francesco Giuseppe vive infatti da sempre una colonia di gatti. Prima di lei se ne occupava Margherita Hack, che oltre ad essere un'astrofisica di fama mondiale era anche una grande amante dei felini. Quanti gatti erano quando lei ha cominciato? Non voglio pensare, e più di 100 gatti adulti, e poi in tutte le feritoie dell'ospedale e quindi sotto cartoni con gattini di un giorno, di 7 giorni, di un mese, di 2 mesi. Se fossero stati lasciati tutti, io penso che diventavano presto 200. Una presenza ben nota in città, quella dei gatti del maggiore, che in passato a volte si avventuravano anche dentro ai reparti. Le dirò, li abbiamo tolti dal piano 1, piano 2, ma diciamo che adesso sono già parecchi anni che non entrano più, anche perché hanno tante casette, tutte ben tenute, con le copertine calde d'inverno, con l'asciugamano fresco d'estate, quindi non hanno motivo. Entravano quando erano tanti. E adesso quanti sono? Adesso diciamo sono massimo 25 e ben nascosti. Io ho quasi piacere che siano poco socievoli, perché così non interferiscono con le persone. Ai miei gatti do la vita, se loro sono felici io sono felicissima. Alessandra Zigaina, TGR Friuli Venezia Giulia. È stata intitolata Diane Fossey, la zoologa che dedicò la sua vita allo studio e alla protezione dei gorilla di montagna fino al suo omicidio nel 1985, e Salice, che ne custodirà la memoria, incluso nella nuova tappa del progetto La Memoria del Legno. L'iniziativa prevede l'intitolazione di alberi dislocati in tutta la regione a personalità significative della storia recente che si sono spese in chiave solidale. L'appuntamento ha coinvolto studenti e studentesse delle scuole di Mortegliano e Lavariano e si è tenuta a Mortegliano nel parco ex Gil in Via Nova questa mattina. Chiudiamo con una notizia di sport. Pallamano Trieste questa sera in trasferta a Cassano Magnago, gioca per conquistare la vetta della classifica della Serie A Gol. Si attende una partita di altissimo livello tra due squadre che si presentano in ottima forma ed entrambe nelle posizioni più alte del campionato di massima serie. La squadra di Carpanese ha all'attivo 3 vittorie consecutive. Inizio alle 19:30. E questo è tutto per il giornale radio, che è stato redatto